quanta gente di te prima o poi si stanca. Noti che non cambia chi non ricambia, ammesso che qualcosa rimanga. Noti come il tempo ci incanta, noti come un evento ci sbianca. Quanta poca voglia di capire com'è che non c'è chi ci manca. Qui che ci manca? Mancano di riferimenti, ricordi che non si collegano ai movimenti. Ricordi rincorsi in foschie, discordi discorsi in corsie. Tu che vuoi che mi ponga, mi si vede che vuoi che nasconda. Che si torna a pensarti, a disegnarti e chi rimane qui affonda. Ma è bloccato il tuo sguardo, galleggiato assorto, levitando storto, le volte c'è contatto le ricordo. Cambiato il rapporto, dal più lungo al più corto, tanto non ascolto mentre parlo sono un sordo. Mi sporgo oltre quell'orlo, fuori dal bordo, sono iscritti da un orco, ci scrivi intorno. Porta che mi trip con l'esico in codice PIN, non basta microchip della tua carta. Se non riesci, mi intuisci, mi siamo piccoli psicolabili, cerca di alibi solidi, stabili. Sempre in fotta uomo, anche se al suolo, anche se solo, come consolo, il pieno di veleno che lascia. Spiegazioni più o meno, ma non basta, non mi resta che di che? Di chi ti ricordi per sorridere? Lascio stare, sorrido così, scorre il ricordo e posso esprimere. Amo vivere di che? Libere sensazioni, scrivere al culmine delle emozioni. Minime nozioni apprese da notti insonne, frasi con anime, dinamiche di immagini amiche, dinamite in una mente mite, depositata da ferite, depositata da ferite. L'ereditiero di uno spirito intero da guarire, fisso lo sbandiero per la crescita della comunità. Hip hop accuso lo shock, quasi lo stop. Colonna della belle epoca, io colui per cui insisto a frequentare vicoli sui angoli più bui. Da oggi in poi pulso con ricerca di design, più che mai fuso i discepoli di Freud. Collaboriamo per sconfiggere il profano che fa commissione, vuole anche lo sgamo. Clint, la mia mente non può capire perché è un concetto senza confine. Idee di getto scritte in rime per colmare il male che vive. Proprio come dice Kime, ciò che segna insegna in questo campo di mine, che si ottiene alla fine, una fine più o meno con stile, va bene, mi arrendo. Sto vivendo e tutte le conseguenze che porta sto vedendo. Niente da dividere, sto capendo. Uomo, di chi? Di te, mi ricordo per sorridere. Metto resti di conclusioni sopra il vuoto che penso. Sia troppe cose che sento, anche volendo non riesco a trovarci un senso. Cosa si impara? Da qui che si impara, da qui con tutti si è in gara. Da qui quello che ci unisce è sempre meno di ciò che separa. Per decidere forse tocca coincidere con ciò che puoi descrivere. Che per vivere, se ti è possibile, ti ricordi per sorridere? Di te mi ricordo per...